Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 30 settembre, buongiorno, bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città. E io sono sempre Caterina con Antonella Cortese alla conduzione di questo programma che vi accompagna questa mezz'oretta questa mattina. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. E l'argomento che ho deciso di dedicare oggi per l'apertura della nostra cronaca sociale è affettività nelle carceri. L'Italia è al fanalino di coda d'Europa. Lo leggo da Angela Stella sul Riformista, e si tratta di un argomento su cui siamo intervenuti diverse volte noi di Eduradio, intervistando su questo anche il Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma, per esempio. Si tratta di riconoscere un diritto fondamentale, e questo è l'appello dell'avvocato Tirelli, che è anche il presidente delle Camere Penali del diritto europeo e internazionale. Un diritto che è sospeso in Italia e che fa del nostro paese uno dei fanalini di coda dell'Europa e del mondo occidentale. Questo perché nel nostro paese la maggioranza dei detenuti, se non la quasi totalità, non lo può ad oggi in alcun modo coltivare questo diritto in maniera continuativa nei rapporti affettivi e familiari con i propri affetti. Quindi già si parla della difficoltà del rapporto continuativo nel sentire i parenti, figuratevi tutto quell'aspetto che riguarda la sessualità, che è proprio neanche a parlarne. L'unica possibilità che vede il deputato Tirelli allo scopo è quella del permesso premio in Italia, che però è concessa soltanto alle poche persone detenute che riescono ad accedervi. Quindi, al fine di cogliere sul punto l'effettivo livello di arretratezza del nostro paese, su questo punto dell'affettività, l'avvocato Tirelli ha detto che le visite intime, prive del cosiddetto controllo visivo, sono attualmente consentite in India, Messico, Israele. In Canada, per esempio, gli incontri di questa natura hanno luogo sin dagli anni Ottanta, in case mobili posizionate all'esterno delle strutture carcerarie. Questo per far cogliere quanto l'Italia sia indietro. Ma in questo stesso periodo, già negli anni Ottanta in Italia, il dibattito aveva, pur con una certa timidezza, iniziato a prendere piede, se non che nessuna forza politica si è sentita, diciamo, investita della responsabilità di portare avanti e portare seguito a questo indirizzo. Quindi si è generato uno stallo in cui gli esiti sono stati detti, il nostro paese si è ritrovato fermo al palo mentre gli stati dell'Eurozona e non solo sono andati avanti con importanti passi. In Europa, pensate, sono 31 gli stati che permettono ai propri detenuti forme più private di contatto affettivo, con il coniuge, il compagno, i familiari e persino amici. Particolarmente avanzati sono per esempio la Svizzera, la Francia, l'Austria. In Spagna il diritto all'intimità è garantito nei confronti di coloro che possono documentare la sussistenza del rapporto, per esempio coppie sposate o costituite more uxorio, nonché di coloro che comunque dimostrino una relazione stabile della durata di almeno 6 mesi precedente alla carcerazione o in costanza della stessa. E ancora, le strutture carcerarie di Norvegia, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi hanno edificato, pensate, appartamenti in cui poter restare senza la sorveglianza per un'ora su richiesta del detenuto. La Germania prevede altresì all'interno delle stesse strutture penitenziarie zone appositamente adibite per il soggiorno degli affetti familiari. Al momento quindi l'Italia rimane l'unico paese indietro dove l'unico istituto di pena nel quale il connubio detenzione affettività è stato reso possibile è il carcere di Opera in Lombardia. Quindi questo rappresenta chiaramente un battistrada da seguire, resta da capire, aggiunge l'avvocato Tirelli, quale forza parlamentare avrà, se l'avrà la forza e il coraggio di portare avanti questo iter. Ma adesso vi lascio con una canzone di Fabrizio Moro e noi ci rivediamo tra poco con Antonella e il cambiamento climatico. Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è, imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire dai rimorsi degli errori che continuo a fare mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. È imprevedibile. Portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia. Amore mio, portami via. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Du Radio. Dopo la pausa musicale parliamo, Antonella, di un altro tema importantissimo al centro del dibattito da diversi anni, no, da pochi anni in realtà, quello del cambiamento climatico. Caterina, hai proprio ragione, hai detto, prima hai detto diversi anni, poi pochi anni. Mi sono corretta. No, ma hai fatto anche molto bene, perché noi ne parlavamo già nel 79 di questa cosa. Addirittura c'era stato un rapporto scientifico che denunciò il cambiamento climatico, sottolineando che le attività antropiche contribuivano all'aumento della CO2 in atmosfera, ma poi ce ne siamo fregati amabilmente. Si trattava proprio del rapporto di Cerny, che esprimeva l'urgenza di agire subito, senza aspettare che fosse troppo tardi. E questo documento è andato, come si dice, nel dimenticatoio, e a distanza di 42 anni i segnali del cambiamento climatico sono ben visibili e le prove scientifiche del contributo umano sono inequivocabili, come ribadito anche dal recente rapporto dell'IPCC, cioè il gruppo intergovernativo che dal 1988 diffonde valutazioni scientifiche per comprendere proprio i cambiamenti climatici. Allora, siccome è una questione antica, ecco, si sa quanto contribuiscono le attività umane all'aumento della CO2? Purtroppo sì, contribuiscono moltissimo. L'IPCC riporta che le attività umane contribuiscono ad aumentare le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e di conseguenza la temperatura media terrestre. Pensa che rispetto al periodo 1850-1990, il ventennio 2001-2020 ha avuto una temperatura media più alta di 0,99 gradi centigradi, mentre il decennio 2011-2020, cioè fino all'anno scorso, più alta di 1,09 gradi centigradi. Inoltre, tra il 2011 e il 2020, l'area marina artica ha raggiunto il livello più basso del 1850, quindi la situazione è piuttosto grave. L'IPCC ha infine elaborato 5 possibili scenari futuri, a seconda delle emissioni di CO2 ovviamente, ma segnala che in ogni caso la temperatura media continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo e che la soglia del grado e mezzo, 2 gradi, verrà superata nel XXI secolo, a meno che non si riducano drasticamente le emissioni. E in questo scenario che ha segnalato l'IPCC c'è anche una buona notizia? Guarda, bisogna anche un po' interpretarle le cose. L'aspetto più significativo del rapporto dell'IPCC è stato già sottolineato in modo sintetico da Piers Forster, che è un fisico esperto proprio di questioni climatiche dell'Università di Leeds nel Regno Unito. Il 9 agosto Forster ha scritto un paio di tweet per evidenziare le notizie buone e quelle cattive anche del rapporto. Le notizie cattive ormai sono familiari, stiamo assistendo a eventi climatici estremi, sempre più intensi e frequenti, siamo vicini a un aumento di 1,5 gradi della temperatura media del pianeta, che raggiungeremo, come abbiamo detto, già a metà secolo, ma c'è una buona notizia, ed è che siamo molto più sicuri di prima del fatto che, azzerando le emissioni nette, si arresterà anche il contributo umano al surriscaldamento. Questa non è una notizia da poco, perché prima non eravamo certi. Adesso si dice che azzerando le emissioni, il cambiamento della temperatura potrebbe addirittura cominciare a muoversi in senso opposto. Questo significa che siamo nelle condizioni di fermare, o almeno addirittura di invertire parte della devastazione. Come si legge dal rapporto, la deliberata rimozione dell'anidride carbonica, cioè CO2, dall'atmosfera, potrebbe invertire alcuni aspetti della crisi climatica. Tuttavia, questo potrà succedere solo se la rimozione sarà superiore alle emissioni. Alcune tendenze del cambiamento climatico, come l'aumento della temperatura della superficie globale, comincerebbero a invertirsi nell'arco di poco tempo, di pochi anni. Altri aspetti avrebbero bisogno di più tempo, e almeno di decenni, per esempio lo scioglimento del permafrost, lo strato di terreno che nelle regioni circumpolari resta ghiacciato per tutto l'anno. Oppure addirittura ci vorrebbero secoli, tipo l'acidificazione delle profondità oceaniche, per invertire la tendenza. Alcuni, come l'innalzamento del livello dei mari, avrebbe bisogno anche di millenni. In altre parole, Caterina, un piano a lungo termine, è vero. Servirebbero uno sforzo eroico e una collaborazione senza precedenti. Dovremmo introdurre profondi cambiamenti nelle nostre società, nelle nostre economie, nel nostro modo di vivere. Però la buona notizia è che potremmo anche riuscirci. Intanto, per rimanere in ambito di clima, vi faccio ascoltare una canzone particolare, che è Sing for the Climate, Do It Now, cantato da un gruppo di persone provenienti dal Belgio sulla musica di Bella Ciao. Ascoltiamolo. Bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV, io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Angelo Aparo, per tutti Yuri, fondatore del gruppo della trasgressione di Milano, e poi ci sono Roberto e Adriano. Buongiorno e bentornati. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata già da 2 giorni, sempre con voi, stiamo parlando delle vostre attività, come, quindi mi interesserebbe sapere come lavorate, però ieri è rimasta una domanda in sospeso. Io vi ho chiesto quali sono un po' le prime domande che anche la società esterna fa alle persone detenute, domande che possono essere anche molto scomode e che quindi comportano una riflessione sul proprio passato, sulle proprie scelte. Quindi su questo, Yuri, do la parola a te. Vuol dire che una domanda pungente, anche dolorosa, viene fuori di solito dopo un po' che le persone, studenti e comuni cittadine, sentono le persone del gruppo della trasgressione parlare. Perché? Perché uno li sente parlare e francamente dice: ma questi sarebbero delinquenti? Questi sarebbero i rapinatori, gli spacciatori, gli omicidi? Parlano così? Nella testa delle persone si produce una discrasia, un contrasto. Ma com'è possibile che delle persone che sono state condannate con l'ergastolo dimostrano questo grado di consapevolezza, di coscienza, di profondità, di sensibilità? Allora la gente chiede: ma tutto quello che state dicendo all'epoca in cui commettevate omicidi dov'era? Questa è una domanda impegnativa, perché da una parte sembra un po' colpevolizzante, cioè come dire: ma se tu oggi hai la testa per dire delle cose così profonde, com'è che all'epoca invece combinavate disastri che non sono proprio per nulla compatibili con questa profondità? Questa è una domanda impegnativa. Allora, io adesso mi fermo, ma la risposta comincia dalla dichiarazione: ebbene, noi 20 anni fa questa coscienza non ce l'avevamo. Dopodiché sono loro a parlare, perché in definitiva loro hanno convissuto con se stessi più che non io con loro, però quello che è difficile comprendere per chi guarda dall'esterno è che la coscienza, utilizziamo proprio questo termine, lo inquadriamo bene, la coscienza non è una cosa che c'è di natura, come ci sono le montagne, e c'è la coscienza. Allora dice: ma se tu oggi parli così e quindi hai la coscienza, la stessa coscienza dov'era all'epoca degli... è semplicemente che non c'era, perché la coscienza, diversamente da quello che si può pensare, è qualcosa che si sviluppa, che si nutre, che si coltiva, e di questo loro sanno qualcosa. Allora ne approfitto subito dopo la pausa musicale per dar la parola ad Adriano e a Roberto proprio su questo. A tra pochissimo. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro, stiamo ascoltando il gruppo della trasgressione di Milano. Riprendo dalle ultime parole dette da Angelo Aparo su quelle che sono l'impatto con la società esterna, le prime domande che fa la società. Per te, Adriano, che cosa ti ha colpito nella tua esperienza di domande che la società ti ha rivolto e come hai risposto? Molte, a volte non avevo le risposte per dare, però ho cercato sempre di parlare con il cuore. Per cui a volte non avevo le domande da fare, cioè non avevo la risposta da dare lì, perché sono molte, cioè ero molto imbarazzato e molto, però ho lasciato sempre parlare con il cuore. Per cui delle persone della società, quando venivano, cioè mi ricordo gli studenti, ma anche delle persone, come ha detto il dottor Aparo, dice, ma non è possibile che tu hai commesso tanti omicidi, non è possibile che tu eri quella persona. Purtroppo io lo sono stato, a volte nemmeno io non dico adesso, però mi guardavo allo specchio e dico, ma come hai potuto fare tutto questo? Che nemmeno io mi sapevo spiegare perché avevo fatto tutto questo. Poi con l'analisi del gruppo, uno analizza, perché deve partire sempre dietro nel tempo. Cosa mi ha portato a questo? Quando tu parla della coscienza. La coscienza è stata, meno male che non è stata proprio cancellata, bruciata, mi è stata zittita, messa al minimo, che si è potuto risvegliare questa coscienza. Però erano le reabiliature, non è una giustificazione quello che voglio dire, però dei conflitti già familiari all'inizio, che i rapporti tra genitori e figli, cioè tra padre e figlio, allora tutta questa incazzatura, questa rabbia ti porta a far sì che la coscienza non la tieni più. È il primo che capita, cioè che ti valorizza, ti fa sentire utile, ti fa sentire questo, cioè che ti seduce, io ci sono caduto perché ero anche debole. Però poi quando in carcere ti fanno la domanda, ma perché hai fatto questo? Perché è tutto un... dove hai iniziato a sbagliare? Ma hai iniziato a sbagliare già da quando avevo 11-12 anni. Cioè lo scheletro che ho vissuto nella mia famiglia, cioè dei valori che uno fa e che ti consegna. Poi nel tempo si vacilla e si commettono degli omicidi come l'ho commessi io. Ma ci stanno anche altre persone che nel gruppo, perché avete ucciso mia figlia? Queste sono delle coltellate, delle fucilate che ti arrivano dentro e che i sensi di colpa la notte non ti facevano dormire. Perché a mia figlia? Cosa c'entrava mia figlia che è stata uccisa? Parlo di Marisa Fiorani, che è stata uccisa la figlia tantissimi anni fa dalla malavita. Per cui queste cose qua non ci sono risposte. E dice, io vorrei sapere perché è morta mia figlia. Mi ricordo che un mio compagno disse, a volte si muore per niente, io non lo so perché uccidevo. Grazie Adriano, ripeto quello che hai detto per allacciarmi invece a Roberto. Domande che sono coltellate, ma domande che sono anche un processo catartico, come nell'antica Grecia quando si andava a teatro a vedere la tragedia e c'erano delle cose talmente brutte che però vivevi, ma allo stesso tempo ti sollevavano in alto, perché era come se le avessi vissute anche se non erano parte della tua esperienza. Tu invece la tua esperienza l'hai avuta, purtroppo, e quali sono state per te le domande coltellate? Noi siamo un pochettino come gli intercettatori, perché avendo vissuto una vita deviante, perdi la concretezza del fare, ma ti rimane però la consapevolezza di quello che hai fatto. Quindi diventi quasi come una sorta di intercettatore di chi nella testa ha il pensiero deviante. Quindi quando prendi un ragazzino, che mi è successo a me in una scuola di San Giuliano, e ti dice in faccia di botto quante persone hai ucciso, c'è una domanda a bruciapelo. Non è facile dare una risposta, ma non è facile per me o per il gruppo della descrizione dare la risposta quantitativa, perché non è questo il problema, perché è anche giusto che uno rappresenti anche la massima negatività di quello che è stato il proprio vissuto, ma è la modalità con la quale viene esposta la domanda. Quindi non è stata in quel caso una domanda fatta perché c'era una coscienza che si stava ribellando verso me. Ma io ho avvertito che è stata una domanda fatta come mitizzare la risposta ricevuta. Quindi ho dovuto sedermelo vicino al ragazzo e farlo riflettere che anche una sola vita tolta è una cosa indegna, una cosa bruttissima, una cosa che quando si risveglia veramente la coscienza ti rimane indelebile dentro il cuore, cioè che ci devi lavorare e convivere per tutta la vita. Grazie Roberto, ci rivediamo domani per concludere il nostro incontro con il gruppo della trasgressione, restate con noi anche domani, a presto. Ci salutiamo, vi invitiamo a scriverci redazionaliberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna. E le rubriche di oggi a seguire saranno sempre su Lefida TV alle ore 17 e anche sul canale 3 Tricolore 636 sempre alle ore 17. Abbiamo le pillole di Antigone, di Associazione Antigone, e a seguire i dialoghi sulla cittadinanza con l'intervista all'insegnante di scienze di Re Bibbia Elena Lugaro. E io vi saluto come sempre, qui con me anche Antonella Cortese e ovviamente anche Enea Flacco. A domani, buona giornata. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.